24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca. Che brutto il paragone, però vivrei con l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. La cortesia, per ritornare alla sua domanda iniziale, era un misto tra cioè avrei preso due piccioni con una fava, avrei fatto contento a Palombo e comunque anche alla richiesta di Tivoli, che mi fu inoltrata da Bosi. C'entrava qualcosa l'utilità commerciale della crociera con questo avvicinamento? Era solo un fatto, diciamo così, personale per due singoli, diciamo, dipendenti o ex dipendenti? Diciamo, in quel caso sarebbero stati i tre piccioni con una fava. Il terzo piccione, se ce lo vuole chiarire? Quello che lei ha detto, anche un fatto commerciale, commercialisti nel interrogatorio di Venezia. La genesi che ha portato a un disastro è una stupidata, dove con un po' di coscienza bastava parlare. Piccione, e mica come le persone causa dei particolari, mandano per aria sogni e grandi amori. Camminerò come un piccione, a piedi nudi sull'asfalto. Tutto qui. Chi guida crede che... Tutto qui la tragedia del Giglio. Voleva prendere tre piccioni con una fava, mica due, tre. Che poi io non li ho capiti neanche bene. Io non capisco bene quando parla Schettino. Cioè mi impegno, ma... C'è questo strascicare le parole, perché quando comandante è una stupidata, che io non ho capito, ho solo capito che sono morte 32 persone per una stupidata. La stupidata sarebbe, cos'è, l'inchino, no? Il fatto che quando le navi da crociera passavano vicino alle isole si suonava, si faceva così, bravi, bravi. Per una stupidata, due piccioni, due piccioni, tre piccioni, colpa dei piccioni, questo ho capito, più o meno. Se non mi chiedesse cosa hai capito dalla testimonianza di Schettino, colpa dei piccioni. Va bene, sono le 6:32 minuti e anche Schettino ha detto la sua mentre un video lo immortala, bello, giacca e cravatta lì sulla nave, è tutta inclinata. Non era poi così inclinata da fare dei capiruzzoli, come li chiamo io con i miei figli, e cadere sulla scialuppa, perché mi sembrava sulle sue gambe, bello lì, fermo nel momento in cui attendeva la scialuppa. L'avete visto il video? Attendeva la scialuppa per lasciare la nave, per carità, non dico scappare dalla nave, perché sennò no, c'è un'inchiesta in corso. Lasciare la nave lì in giacca, cravatta, bello, tutto vestito di tutto punto. Sono le 6:33 minuti, e questo è 24 mattino. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione, ci abbiamo anche Gianmarco Ferronato oggi in regia. Dove avete messo l'alpino? Non ho capito, avete in un e niente, basta, ormai è diventato compost buono per concimare i campi della provincia di Milano, è stato sparso così, l'alpino Peter Bescapè. Va bene, questo è 24 mattino, voglio aprire il Parlamento subito, dai, apriamo il Parlamento. C'è anche... Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Io ho voluto iniziare anche così per mettere di buon umore subito la nostra Paoletta, la nostra rossa nazionale, Paoletta Saluzzi. Mi hai regalato il buon umore del mattino, Alessandro, buongiorno a tutti. Il tuo amico, buongiorno. Schettino, il tuo amicissimo, so che è una persona che apprezzi molto. Assolutamente, che stimo particolarmente, ma volevo dire che il quarto piccione, o se vuoi la frittata di uova di piccione, sì, e oltre all'inchino, a quello che si voleva fare, un uomo, un comandante e uomo di mare che lascia, giustamente tu hai scelto il verbo, lascia la nave in giacca e cravatta, Ma oltre che in giacca e cravatta, anche nudo, ma voglio dire, lascia? Sì, ma poi se vedi il video, cioè, si sistema un attimo la camicia. Con calma, non c'è furia, come si suol dire. Un uomo di mare che lascia la nave che sta affondando. Sta affondando solo perché il buon Dio, o il buon caso, per chi non ci crede, ha fatto virare la nave di là invece che di qua. E lascia. Io sono amica della signora Mara Parmigiani, che sta scrivendo una serie di libri, uno più giusto e più importante dell'altro, e che a bordo di quella nave ha perso tutto fuorché la vita. Mm-hmm. Quindi è già una donna fortunata, ma ha perso tutto ciò che aveva nel suo lavoro, che mi racconta di storie incredibili, visto che era lì. E tu pensi che in tutto questo il comandante non fosse più a bordo della nave, fosse a terra? È così questa domanda, che per carità non la lancio io, si lancia dal giorno in cui è accaduto tutto questo. Così, ecco. No, tra l'altro questa immagine pare che ritrarrebbe proprio il momento in cui abbandona la nave Schettino, e lui è che ha sempre detto: sono scivolato, non stavo è caduto in una scialuppa. E si vede invece lì dalla nave, come canta Paolo Conte, no? Esatto. È caduto nella scialuppa, è risaputo. Vabbè, io intanto vorrei salutare, cara Paola, il nostro direttore Luca Dini, direttore di Ventifer. Buongiorno anche te. Che cosa ti ha suscitato questo piccione, caro Luca? La voglia di, visto che sono stati chiesti 20 anni, no? Voglia di vederlo in galera almeno 10, e soprattutto di sentirlo, di non sentirlo più parlare per almeno 100. Ecco, bravo, come sempre Luca. Questo sai che in Italia questo non sarà possibile, non sarà così. Ma io, se stesse zitto, sarebbe possibile. Ma sì, voglio dire, non lo so, ma sta di fatto che insomma, sì, queste immagini lo inchiodano un po' tutto, raccontano una verità. Certo, fossero uscite un po' prima magari queste immagini, no? Tutte queste chiacchiere, sono scivolato, eccetera. Ma evidente, lo sapevamo, dai. Cioè, non avevamo dubbi. No, chiaro che nessuno è scappato. Eccolo lì. Vabbè, io però vorrei chiedere al mio direttore una domanda molto molto seria. Quanto avresti pagato per avere le foto di Salvini nudo? Per avere le foto di Salvini nudo in copertina. Posso spoilerare la mia copertina? Sì, poi poi, cioè, poi... c'è Brad Pitt che è in lacrime, dire. Effettivamente la copertina di Vanity Fair oggi è un banale, un bruttone. Doveva fare concorrenza Matteo Salvini. Esatto, assoluto. Esatto, io adesso le metto qua a fianco. Allora, in prima pagina di Vanity Fair effettivamente c'è Brad Pitt, e in prima pagina di oggi c'è Salvini nudo con la cravatta verde. Capisci che sono un po' impietosi. È un colpo al cuore. Oggi poi c'è... non so che cosa c'è dentro, perché non ho ancora visto. Attenzione, cosa dentro. Sono so curioso. Dentro, vabbè. Volevo capire se c'è anche il nudo frontale. Infatti ma c'è. Però guarda che Spinoza oggi sul Fatto Quotidiano, sempre urticante, in prima pagina è questo, cara Paola: Salvini nudo sulla copertina di oggi. Adesso sappiamo perché odia i negri. È terribile, sì, però effettivamente non è male come battuta. Perché ce la spieghi, Paola, questa battuta? Non mi avrete mai. Vabbè, comunque ieri il nostro amore della nostra redazione, vale a dire colei che ci offre il caffè tutti i giorni, cioè il ministro Maria Elena Boschi, che era da Lilli Gruber, ha parlato anche di questo, le foto di Salvini. Voi sentite anche ovviamente sempre la voce di Maria Elena Boschi, come suona. Ministro Boschi, le faccio vedere questa foto. Il presidente della Toscana Rossi, adesso la faccio vedere, è stato sommerso da attacchi per questa foto su Facebook. Lo ritrae con i suoi vicini di casa, una famiglia rom, no? Ha avuto anche attacchi durissimi da parte di Salvini. È una foto che imbarazza il PD per averlo difeso zero, niente solidarietà. Forse è più imbarazzante Rossi. sono più imbarazzanti le ultime foto di Salvini, insomma, forse se c'è qualcuno che sulle foto in questo momento non dovrebbe fare commenti è proprio Salvini, diciamo. Eccolo lì, chi di foto ferisce, di foto perisce, no? Perché Luca Dini c'è questa foto, certo. Magari parliamo anche di questa foto di Rossi, il presidente della Toscana con i suoi vicini Rom, e lei dice forse sono più imbarazzanti quelle di Salvini, caro Luca? In effetti, vabbè, comunque. Però la domanda era sulla solidarietà del PD che non è arrivata, ecco. E questa cosa effettivamente è un po' strana. Tra l'altro, sarebbe meglio indagare. Cosa ha fatto Enrico Rossi, presidente della Toscana? Ha messo la foto dei suoi vicini di casa. Io ho detto, spesso, quasi sempre, si dice questi bravi soloni della retorica che dicono sì, prenditeli in casa tu i Rom, tieniteli come vicini di casa. E lui ce li ha vicini di casa. Rossi, e quindi ha fatto questa foto con i miei vicini di casa. Paola, dal PD nessuna solidarietà. No, questa... Allora, attenzione, occhio al maledetto buonismo che scopriamo essere peggio dello smottamento del terreno nel nostro paese, quindi ha prodotto più danni della grandine della pioggia. Esco fresca dallo speciale di Sesto Doloso, per questo parlo in questa maniera. E quindi guai al buonismo. Di contro, se quest'uomo ha postato la fotografia e quest'uomo è il governatore della Toscana, magari farà arrivare anche una voce di solidarietà, di sostegno, di guarda, hai fatto bene, perché se questi sono i tuoi vicini sono persone che si comportano più che decorosamente, hai fatto bene a postarla. Forse ci sarebbe stata, insomma. Poi certamente la Buschi probabilmente era ancora scioccata per questa foto di Salvini, che poi la cosa bella della foto di Salvini è la faccia. Non ne usciamo. Si sta divertendo di questa ascella libera e libero sorriso. E quindi è libero divertimento. Tutto qua. Vabbè. Però la cosa turba. Però, vabbè, è il giorno delle foto. No, ma a proposito di questa foto con i Rom, tu, Luca Dini, l'hai vista? Cioè, ti sei fatto un'idea? Ha fatto qualcosa di così grave, Rossi, da meritarsi una serie di improperi da parte di tutti? Ma non so, cioè, più che altro ha contraddetto il luogo comune secondo cui, diciamo, quelli del PD sono tutti dentro le mura, sono tutti, abitano tutti in centro. E in effetti c'è un po' un problema, dai. Sembra che quello che succede nelle periferie d'Italia non interessi. Alla politica italiana non interessi. Certo, alla politica. Tranne a chi non vive in quelle zone, sembra che non interessi, no. Diciamo che insomma hanno lasciato l'esclusiva del problema a Casa Pound. A Casa Pound, eccolo lì. Non è bello questo. No. Sì, effettivamente. Io non ho visto grandi dichiarazioni del governo, su quello che è successo, con racconti di quello che i giornali hanno fatto, di quello che succede, le case occupate. Noi abbiamo fatto tante puntate. Non ho visto effettivamente Paola Saluzzi. Però si parla molto di legge elettorale. Tu ci potrai raccontare gli ultimi sviluppi della legge elettorale. La legge elettorale non se ne può più. Che oggi io mi occupo anche di case popolari di Milano, vedi, che è andata a fare, oggi alle 15, avendovi seguito tantissimo e avendo seguito tutto quello che avete fatto. Ma si parla anche di legge elettorale, di settimane decisive. Adesso il conto però è legge elettorale prima, siamo a sempre... prima il nome del Quirinale. Sì, esatto, siamo all'83esima settimana decisiva. Il nome del Quirinale, abbiamo il nome. L'ultima è questa. Luca Dini, che sa di avere la prima corazziera donna, che sono io, e poi il corazziere ufficio stampa. Milan. Io ufficio stampa, mi accontento di fare quelle note ufficiose o ufficiali, che sono dei giri di parole fantastici per ogni tanto. Luca, quando tu ordini, io faccio una nota del Quirinale. Fonti vicine al Quirinale. Vi farò chiamare dai giornalisti, dirò sì, guarda, il presidente sta facendo fonti vicine al Quirinale. Assolutamente. E poi ovviamente vengono a te e dico: presidente, ma non so assolutamente da dove siano potute uscire queste cose. È indicibile, è vergognoso. È vergognoso non si dice a un presidente, è increscioso, presidente, tutto ciò. No, l'ultima sulla legge elettorale è questa. Io non ne vorrei parlare, ma le pagine dei giornali sono piene. L'ultima l'ultima è la proposta di Renzi: approviamola adesso, ma mettiamola in vigore dal 2016. Congeliamola. La legge, dite, il congelellum. Questo è il nuovo, la nuova legge elettorale. Luca Dini, vuoi dire la tua sulla legge elettorale, sugli scenari della politica attuali? Credo che nelle case popolari non si parla d'altro. Sì, effettivamente, effettivamente è il tema delle riunioni di condominio nelle case popolari. Sì. La legge anche al bar. Non si parla d'altro. Poi questo fatto di congelare, sai, viene l'inverno, così congeliamo. Esatto. E cosa andiamo a votare nel caso succedesse, nel caso ci fosse? Consultellum, oppure Italicum, no? O il congelellum. Vabbè. È tutto chiarissimo. Questo ragazzo di 18 anni che deve votare per la prima volta, è un momento esaltante. Spera che rinvino il voto per i prossimi 15 anni, forse, non lo so. Comunque andiamo a sentire le informazioni sul traffico, che poi vorrei capire, nella simpatica Roma, dove vive Paola Saluzzi, ci sono delle belle persone? Ercecato, Ermonnezza, Maialone, Porco, non è che sto leggendo, sono i soprannomi di quella che è l'inchiesta sulla mafia a Roma. 24 mattino. Oh, Milan, hai rotto te con tua Dinolfi, tuo Milan del puntini. Vogliamo la Brescia e la Saluzzi del lunedì. Non rompere più le balle con tua Dinolfi, tuo Milan del cavolo. Vogliamo la Brescia e la Saluzzi del lunedì. Milan, la visione marxiana, l'invasione marxiana. Ora Renzi ti spaventa anche con i marziani. Anche io ho amici juventini e uno juventino lavora con me, però, e qui lo dichiaro pubblicamente, sono gobbofono. Milan, la scorsa settimana ho sentito un messaggio per la Saluzzi, d'amore, e ho pensato, ma a Luca Dini non ci pensa nessuno. E ciao Luca, io mi chiamano la Perugina, ti amo, apprezzo molto quello che fai. Ciao Milan, dai, mandami in onda che voglio sentire la mia voce in radio. Ti dico le parole chiave, la password. Non sono contento del governo e la Paola Saluzzi è una grande gnocca. Dai, fammi sentire la mia voce in radio. Ciao. A grande richiesta, Paoletta. A grande richiesta. Però ma che meraviglia, però c'era anche una dichiarazione d'amore per Luca Dini, ma io ho come il sospetto che fosse un uomo che parlava in falsetto. Adesso Luca, io così. Era Salvini. Era Salvini. Adesso, nudo. Te lo dico, nudo. Salvini, nudo. Con l'ascella libera. Non è male, l'ascella libera. Sì, è lì che è. Cioè, te ha colpito l'ascella libera, soprattutto, di quella foto. Insomma, così ho calcolato che, a meno che di non vederlo girare nella vecchia sana canotta di tempi bossiani e di bossiana memoria, non è che sia sempre Costantino. Con la cella forbicine. Che orrore, c'è un po' da sfoltire. Vabbè, sono cose che capita. Oh, che bella combriccola, Nero, Pirata, Cecato, Re di Roma, Rommel, Porcone, Maialotto, Bombi. Cicorione, Cane. Cioè, ragazzi, secondo l'inchiesta della Procura di Roma, una roba serissima, 1000 pagine di indagine, Roma in pratica era in mano gran parte di alcuni politici di Roma, insomma, la Roma che conta, la Roma dei burocrati, quelli che poi influiscono nelle scelte, cara Paola, era in mano a questa banda di criminali. Sì, questo sembrerebbe emergere, e qui torniamo al vocabolario classico. Sembrerebbe emergere, Pignatone sta facendo il lavoro per il quale è nobilmente tagliato da sempre, e sembrerebbe emergere tutto questo, e aggiungiamo che tristezza immensa, perché vuol dire proprio che la realtà supera qualsiasi fantasia, sì. Serie. Ma anche perché poi attori. I protagonisti sono quelli della banda della Magliana, ma ancora, cioè, ma dove erano se non in carcere fino a questo momento? Cioè, è quello che mi sconvolge, Luca. No, posso dire una cosa su questo terminale, Terguercio? Sì. Io sono stufo di sentir dire che uno è un ex terrorista, cioè quando è che uno diventa ex terrorista? Cioè parlo di destra e sinistra, cioè non bisognerebbe frequentare gli ex terroristi, perché gli ex terroristi sono terroristi, cioè un ex assassino è un assassino, non è che cambia. Cioè, e infatti la dimostrazione che a 54 anni, dopo aver fatto tutto quello che ha fatto, è stato, come scrive oggi Gramellini, è stato arrestato ieri. Ma perché fino a ieri dov'era? Cioè c'ha una sfilza di precedenti, di... Poi non era solo lui, ovviamente c'è questa connivenza con la zona grigia, colletti bianchi, burocrati, insomma, gente leggere le intercettazioni sono davvero, davvero incredibili. E vabbè, avevamo fatto un casino per la panda rossa del sindaco Marino, ci sono dei problemi un po' più seri forse, certo, Paola. Sì, ovviamente, certo, Marino può... come dire, guardare alla cosa con sicuramente non con legittima soddisfazione, perché voglio dire nessuno non è bello, si trova sapete. Soddisfatto di una cosa del genere, però inevitabilmente però guardare a questo stare problema zitto, diciamo. Dici c'è chi dovrebbe stare chi zitto dovrebbe stare zitto per sempre, ecco. A chi ti riferisci? Ecco. Forza, avanti, vabbè, insomma, no, voglio dire adesso è solo indagato, ok. Sono indagato. Riferisci all'ex sindaco, però, immagino Alemanno. Quando ha detto che la vicenda di Marino era bruttina, questa anche questa non è male. Vabbè, allora, come detto, la copertina di Vanity Fair è Brad Pitt vestito, cara Paola, vestito. Ah, va bene sempre. Però anche lui c'ha la camicia un po' scollacciata, quindi non si intravede se c'è bisogno di formicine, se c'è bisogno di formicine. Però ho letto che ha fatto una lite furibonda con Angelina Jolie e quindi siamo qui tutti pronti, ci freghiamo le mani e c'è Gianmarco Ferronato che è pronto, Lorenzo Nespoli sono pronti. Hanno fatto una lite. Ma non è vero. No. Come fai a sapere? Scusa, li hai chiamati e gli hai detto tutto a posto? No, non ci credo. Sono da 10 anni vengono dati per lite e rottura una settimana su due, poi secondo me no. E secondo te no. Vabbè, però leggerò con molta curiosità. Cos'è questo libro che esce in Francia sul sesso delle mamme? È un libro sulla sessodipendenza femminile. Ah. Che è diversa, ma esiste, e pare colpisca soprattutto le donne giovani, sposate, e soprattutto le neomamme. Ah. Che ti devo dire? Non so. Qua abbiamo una donna, non è mamma, ma Paola Saluzzi vuoi dirci, è giovane. Leggerò con attenzione, grazie infinitamente. Leggerò con attenzione e capiremo meglio, come facciamo sempre, lo ribadisco con Vanity, siamo già, in realtà questa è una voce registrata, io sono già davanti all'edicola. Vabbè, ma su ci potevi regalare qualche perla maggiore sulla sex addiction delle donne? Possiamo parlarne. io chiuderei così. Chiuderei così. Non c'è nulla da aggiungere. Possiamo parlarne alle 15 su Sky. No, parlano d'altro. Alle 15 su Sky con Paola Saluzzi e col nostro Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Vi saluto. Alla prossima, Maurizio. Sono Alessandro. Comunque mi chiamo sempre Alessandro. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Noi ci siamo alle 7:18 minuti e voi, razza di debosciati, che cosa state facendo? Debosciati perché noi siamo in onda dalle 6:30. E invece voi ancora, come dico io, rallentati nei vostri movimenti mattutini, nelle vostre colazioni interminabili. È tutta invidia ovviamente la mia, la nostra è solo invidia. Qua brioscina alle 5:30 e via, in onda. Dai, allora ragazzi, siamo pronti e vi ricordo che oggi parleremo di che cosa? Beh, intanto vi racconteremo che cos'è la legge Mosca. Sapete cos'è la legge Mosca? È una legge che consente a qualcuno di andare in pensione prima e in maniera un po' più privilegiata degli altri. Ne parleremo. Come torneremo sulla vicenda. Ieri mi ha molto colpito la vicenda di cronaca che abbiamo raccontato di questo bambino travolto da un pirata e che non si farà un giorno di carcere, ubriaco, dopo averlo ucciso è andato a prostitute, così. E molti ci hanno scritto: ma perché non tornate su questa cosa dell'omicidio stradale? Torneremo ad avere con noi il viceministro dei trasporti Nencini, che aveva detto a luglio a questi microfoni: dai che ci siamo, facciamo l'omicidio stradale, vediamo a che punto siamo. E in tutto andiamo a leggere i giornali, dai. In questo mercoledì 3 dicembre il Sole 24 Ore apre ancora sui nuovi minimi per il petrolio. South Stream pesa in borsa. L'effetto South Stream, cioè lo stop al gasdotto comunicato da Vladimir Putin. E poi tutte le altre aperture praticamente sono per questa inchiesta sulla mafia a Roma. Così corrompe la mafia di Roma, per il Corriere della Sera. Per Repubblica, mafia la cupola di Roma. Il Manifesto ovviamente ha il cupolone. La Stampa, ecco la cupola di Roma, il Campidoglio travolto da infiltrazioni mafiose. Il Messaggero, mafia e politica, la retata di Roma. Il Fatto, mafia capitale. Libero è esplicito, la società dei magnaccioni. Il Giornale, crolla il cupolone. Come vedete i titoli tutti declinati su questa notizia che andiamo subito ad approfondire in una serie di verbali che hanno portato a 37 arresti, come abbiamo sentito nel giornale radio, che vedono protagonisti chi? Er Pirata, Er Nero, Er Cecato, Er Watson, Er Rommel, Er Tanca, Er Porcone, Er Maialotto, Er Bombi, Er Cicorione, Er Caccola, Er Cane. Ecco, tutti questi soprannomi della Roma bene, evidentemente, no? Er Massimetto La Guardia, Er Boio, Er Forfora, Er Miliardario. Tutti i soprannomi di questa cupola che secondo la Procura di Roma aveva in mano in maniera bipartisan politici, burocrati, funzionari, persone che poi gli permettevano di fare affari. Infatti pagina 2 del Corriere della Sera: una cupola per appalti e affari, una manovalanza criminale infiltrata negli appalti dei servizi cittadini, manovrata da vecchi boss dell'epoca eversiva assieme a giovani luogotenenti, una mafia autoctona che al controllo territoriale in senso stretto preferisce l'esportazione di metodi estorsivi e intimidatori, una cupola i cui capi, con autoironico gusto per la citazione, interloquiscono alla leggendaria maniera del costruttore Gaetano Caltagirone e del politico allora DC Franco Evangelisti. Che te serve? No? Così Massimo Carminati al suo braccio destro Salvatore Buzzi. Ecco, uno dei protagonisti è questo Massimo Carminati. Ci sono profili ovunque, dalla banda della Magliana ai giorni nostri. Giovanni Bianconi a pagina 2 del Corriere della Sera: Carminati dai neri alla Magliana, sono il re, vedi che gli combino. Colui che si amava definire l'ultimo re di Roma. Ma guardate, ogni giornale dedica 10 pagine a questo tema, con le intercettazioni da cui, che ne so, a un certo punto leggo dal Messaggero a pagina 5, Carminati dice al suo collaboratore in questa cupola, secondo la procura, Salvatore Buzzi, capo della cooperativa 29 giugno, trade union tra Carminati e la politica. E mettiti la minigonna e vai a battere con questi in comune, amico mio. Bisogna vendere il prodotto. A un certo punto dice: c'è da pigliare le misure a Marino, anche al nuovo sindaco. Mentre col vecchio sindaco, secondo la procura, infatti Alemanno è indagato, anche se dice: io sono in grado di assolutamente uscire pulito da questa vicenda, però Alemanno è indagato. L'ascesa del Guercio dai NAR al business, sono il re di Roma. Anche Daniele Mastrogiacomo su Repubblica si concentra su Massimo Carminati, sulle 37 persone, alcune arrestate, altre indagate, che avrebbero messo in piedi questa cupola in cui c'erano, cari amici di Roma, bustoni di soldi per tutti. Questo si legge dalle carte dell'indagine. Carminati descrive così la rete di contatti tra criminali e politici. Questo è il titolo, per esempio, di pagina 4 del giornale: bustoni di soldi a tutti, pure a Rifondazione. C'è anche questa foto che viene messa dal Corriere della Sera che ritrae in una cena Alemanno, Poletti, oggi ministro. E in questa cena c'è anche il pluripregiudicato Casa Monica, viene ritratto con la felpa dell'Italia. Ovviamente si sa, non è che uno può controllare tutti i commensali, però succede anche questo. Tra l'altro, sulla Stampa, oggi Massimo Gramellini in prima pagina si concentra proprio nel suo buongiorno, titolato L'uomo nero, su questa figura di Massimo Carminati. Allora, bisogna farsi una cultura, eh? Scorriamo insieme la fitta biografia del 56enne Massimo Carminati, alias Il Nero di Romanzo Criminale. Picchiatore neofascista ai tempi della scuola, terrorista dei NAR, esperto nello spaccio e uso di esplosivi, accusato dell'omicidio di Fausto e Iaio, giovani militanti della sinistra milanese, protagonista di una famosa rapina alla Chase Manhattan Bank, killer affiliato della Magliana, tanto che il suo nome ricorre in decine di stragi, assassini e rapine. Accusato del delitto Pecorelli, ferito gravemente alla testa durante lo scontro con la polizia mentre tentava di espatriare illegalmente in Svizzera, custode di un deposito d'armi, dedito nel tempo libero a traffico di stupefacenti, estorsione e riciclaggio, imputato e condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, indagato per furto nel cavò del Palazzo di Giustizia a Roma, coinvolto nello scandalo del calcio scommesse. Il 2 dicembre 2014 viene arrestato. Ma perché fino a ieri dov'era? Questa è la domanda di chiusura di Gramellini, che effettivamente fa, come dire, suscitare qualche domanduccia su questa vicenda. Il quotidiano Repubblica dedica una pagina a pagina 4 e la firma è quella importante, è Giancarlo De Cataldo. Giancarlo De Cataldo, scrittore, colui che ha scritto Romanzo Criminale, ex magistrato, e che parla di raffiche di arresti, nomi eccellenti, bipartisan, è colui che ha scritto Romanzo Criminale, quindi colui che ha scritto tutto ciò che riguarda la banda della Magliana. Lo spettro della banda della Magliana, scrive Giancarlo De Cataldo, mai compiutamente esorcizzato, ora è apertamente evocato. Ma se i fatti ipotizzati dagli investigatori saranno confermati, se questa è stata negli ultimi anni Roma, c'è da mettersi le mani nei capelli. D'altronde, che a Roma ci fosse del marcio era da tempo sotto gli occhi di tutti, dalle periferie violente agli omicidi di strada, dai negozi che passano rapidamente e misteriosamente di mano, allo sfaldarsi del tessuto di solidarietà tra cittadini, la presenza di un'agguerrita mala si percepiva. E come? Carabinieri e poliziotti, si sa, amano battezzare con titoli evocativi le operazioni più delicate. Questa l'hanno chiamata mondo di mezzo, una scelta terribilmente appropriata. Descrive quella zona grigia che sta all'incrocio tra le vocazioni criminali conclamate, lombrosianamente riconoscibili, e quelle che nascono e si alimentano nelle varie stanze dei bottoni. Connota il terreno vago della convergenza di interessi che autorizza il patto scellerato tra la persona soi-disant per bene e il malandrino, la confusione del patrimonio lecito con il frutto dell'estorsione, la spartizione delle risorse di tutti in nome della convenienza di pochi, e chiama direttamente in casa la politica, a cominciare dall'ex sindaco Alemanno. Così Giancarlo De Cataldo su Repubblica, ma guardate, oggi troverete pieno di pagine e di tutte le intercettazioni, se vi volete esercitare, di questa vicenda. Iena sulla Stampa, il suo graffio a pagina 3 è questo: ieri ho finalmente capito perché ho votato Marino. E sì, effettivamente Marino è quello per cui è stato fatto un gran casino, ne abbiamo parlato anche noi, per la pandina rossa. La pandina rossa? Vabbè, ma siamo a che cosa? Beh, a tutti gli articoli riguardanti Schettino, lo sapete, no? Schettino che voleva prendere tre piccioni con una fava. Ma a proposito di Schettino, è questo il premio Mani sul volante, si dovrebbe dire Mani sul timone. L'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata è sul Secolo XIX, perché sapete che è spuntato questo video in cui si vede lui, Schettino, o comandante, che tranquillo, giacca e cravatta, sta per abbandonare la nave. Allora, eccolo qua, l'articolo del Secolo, io non ci volevo credere, eh? Pagina 8, l'avvocato di Schettino. Il secolo XIX va a chiedere due cose con Patrizia Albanese riguardo a questo video. Di lui, giacca, cravatta, tranquillo, British, sembra James Bond in un film che, senza fare un plissé, attende la scialuppa di salvataggio. Eccolo qua. Avvocato, allora, l'ex comandante non esce benissimo da questo video. Sentite l'avvocato. No. Perché? Sostiene il difensore. In quelle immagini ci si rende conto della situazione che è in continua e rapida evoluzione, la sua drammaticità. Appunto, avvocato, fa strano vedere il comandante placido che attende di andarsene come un ospite. E che doveva fare? Risponde l'avvocato. Che doveva fare? Beh, avvocato, Schettino era il responsabile della nave. Dipendeva tutto da lui, l'equipaggio attendeva i suoi ordini. No, proprio da quel filmato si vede che si riusciva a scendere da quella maledetta nave e salire sulla scialuppa. Insomma, come dire, tradotto, se siete morti è perché se siete degli ignoranti non sapete scendere da una nave, no? Fermiamoci, va, perché se vado oltre. Io sono in ogni luogo. Io sono dentro di voi. Sono dentro ognuno di voi che ascoltate. Guardatevi dentro e mi troverete lì. E io vi saluterò. Ciao Milan, che te portino via fuoco. Grande, grandissimo il nostro contadino di Terni, che te possino piglia fuoco. Anche a te, caro Angelino. Allora, incredibilmente, sebbene siamo nel pieno dell'83esima settimana decisiva per la riforma elettorale, incredibilmente ancora oggi sui giornali paginate proprio dedicate a questo tema. Non potete scampare. Allora, la proposta di Renzi, che ieri era in Algeria per discutere anche della vicenda Piombino con il presidente Bouteflika. Allora, la proposta di Renzi è questa: approviamo subito l'Italicum, ma congeliamolo per un anno e facciamolo entrare in vigore nel 2016. È il modo che ha Renzi per scongiurare l'accusa di dire vuoi fare la legge elettorale per andare subito al voto. Lui dice facciamola, però approviamola e congeliamola per un anno. Dall'altra parte Calderoli, lo raccontavamo ieri, ha in mente il piano per fare ostruzionismo su questo e far slittare la legge elettorale, quello che è l'obiettivo di Berlusconi e anche della Lega, per la verità non di tutti. Sentite anche Cuperlo del PD a Renzi: non c'è fretta. Non affrettiamo. Ma come non affrettiamo? Sono 83 settimane solo, caro Cuperlo. Non c'è fretta. Vabbè, comunque, Calderoli. Ecco il piano per mettere in difficoltà il Premier. Già dal titolo si capisce tutto. Pagina 13 del Corriere della Sera. Se Renzi vuol dimostrare di essere in buona fede, ha un sistema semplicissimo. Votare e far votare il mio ordine del giorno sulla legge elettorale. L'ordine del giorno è che all'articolo 1 dell'Italicum si scriva con chiarezza una clausola di salvaguardia. Niente Italicum senza riforma del Senato e consultellum per il Senato. Insomma, facciamo la legge, facciamo la fretta, ma non facciamo un'altra porcata. E aggiungo, se lo dice lui, poi se vogliamo andiamo a votare anche nella primavera del 2015. Noi ci stiamo. Il padre del Porcellum dice sulla legge elettorale nessuna trappola, ma provino a votare il mio ordine del giorno. E sulla proposta di Renzi di congelare per un anno la legge elettorale dice Calderoli, questa poi è fantastica. Allora su questa base la legge Delrio è incostituzionale. Il provvedimento che cambia faccia le province è scritto così: questa legge resta valida fino all'avvenuta modifica costituzionale. Io lo dico sempre, se non ci avete capito niente di quello che ho letto negli ultimi due minuti, non è grave. Siete voi i normali, tranquilli cari cittadini, siete voi i normali. Sono loro quelli strani che parlano di legge elettorale, una cosa che capiscono solo i tecnici e fanno anche fatica a volte a capirlo, e di cui tra l'altro si parla tutti i giorni con dibattiti che si intorcinano su loro stessi e continuano a riproporre. Si parlano tra loro attraverso i giornali, si parlano tra loro, non parlano a voi cittadini, si parlano tra loro. Questo dovete averlo ben in mente. Intanto il Corriere della Sera dice con Daniele Manca che arriva un consigliere ad hoc per Renzi. È colui che è stato più volte indicato anche come possibile ministro, ha sempre rifiutato, è l'ex amministratore delegato di Luxottica Andrea Guerra. Sarà con il ruolo di consulente personale di Matteo Renzi. Un giorno alla settimana sarà a disposizione di Renzi a Roma, a titolo gratuito. D'altronde racconta il Corriere con Daniele Manca che al momento della sua uscita da Luxottica Guerra ha incassato tra liquidazione e vendita di azioni 46 milioni di euro, quindi certo non ha bisogno, come dire, del gettone di presenza a Roma. Si occuperà di tutti i dossier caldi, come quello anche dell'ILVA, insomma del raccordo tra il governo e il mondo imprenditoriale, lui che in aziende, soprattutto in un'azienda importante come Luxottica, ha fatto la gran parte della sua carriera. Guerra, chiamato a Palazzo Chigi, sarà consigliere del Premier. Mentre dal punto di vista politico ancora si discute dello scouting del 5 Stelle da parte del PD. I renziani ottimisti, un po' di gente verrà. Questo è il titolo del Corriere a pagina 15, Monica Guerzoni. Tra l'altro, secondo quello che è il clima all'interno del movimento, come titola Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 12, chi va da Pizzarotti rischia la cacciata. C'è questa manifestazione indetta da Pizzarotti per domenica al sindaco di Parma. Sul blog di Grillo appare una blacklist dei partecipanti al raduno del sindaco di Parma e gli attacchi a Renzi per lo scouting. Insomma, si muove qualcosa in politica. Si muove anche il fatto che Forza Italia ormai ha licenziato i dipendenti. Questo lo racconta a pagina 8 della Stampa Ugo Magri. Resteranno a casa ormai metà degli stipendiati, 83 dipendenti, per metà di loro non ci sarà più futuro in Forza Italia, verranno mandati a casa. I superstiti invece, una quota di loro finirà in cassa integrazione. Tra questi anche lo storico cameraman di fiducia di Berlusconi, Roberto Gasparotti, colui che inventò la calza femminile da mettere sulla telecamera per rendere di colore più roseo, più bello il video famoso in cui Berlusconi annunciò la discesa in campo tanti anni fa. E anche lui, Roberto Gasparotti, dopo il video del 94, rimane a casa. In tutto questo c'è la guerra e la lotta per il Quirinale. Allora, Riccardo Muti, ieri il Fatto Quotidiano titolava che il figlio aveva forse improvvidamente detto che Renzi ha chiamato papà, e l'ipotesi Riccardo Muti al Quirinale c'è. Oggi il Fatto Quotidiano torna su questa vicenda, la smentita da Algeri, ma Muti annuncia io a fine carriera. Racconta il Fatto Quotidiano che Muti, dopo al termine di un concerto a Firenze, ha detto: sono cambiato negli anni, ma ho sempre lo stesso spirito che Firenze mi ha dato. La mia attività sta volgendo al termine, ve lo posso dire, mica come quei politici che pensano di essere eterni. Ovviamente il bu del pubblico, dell'Opera di Firenze, fischi che compiacciono al maestro più di qualsiasi applauso. Ma certo questo dire io sono a fine carriera da parte del maestro Riccardo Muti al pubblico in qualche modo ha rilanciato l'idea che è a fine carriera come maestro, perché si prepara il grande salto al Quirinale. C'è incredibilmente anche un'intervista a Vittorio Sgarbi, che è una persona che spesso sente Riccardo Muti, questo è vero, ve lo posso confermare. Viene intervistato dal Fatto Quotidiano, dice: sì, ho parlato con lui e con sua moglie questa mattina, l'ho chiamato per dirgli che tuo figlio ha fatto male a dire queste cose al giornalista, perché così si rischia di bruciare la candidatura, ma lui invece era divertito e potrebbe non essere così, perché lui non è un politico, dunque potrebbe non essere rottamato. Ora si calmano le acque, al momento opportuno può ritornare in gioco. Insomma, dice Sgarbi, ho parlato col maestro Muti, non direbbe di no a questa proposta, anche se lui dice io sono a fine carriera come maestro. A proposito di gente a fine carriera, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno. No, ma sai perché dico a fine carriera? Perché sta per iniziare una tua nuova carriera. Devo fare un annuncio: stasera al Sole 24 Ore nell'auditorium. A che ora, Mauro? Dillo tu l'ora. Dalle 21. Dalle 21, i Chapter 11. capitanati da Mauro Meazza e non solo, suoneranno per beneficenza, quindi questa è una cosa molto importante da dire. Qui siete tutti invitati, sede del Sole 24 Ore, va bene? Ti ringrazio molto Alessandro. La tua nuova carriera da musicista. La mia nuova carriera, potrei anche chiamarmi, visto la giornata, visto i giornali di oggi, Erchitar. Erchitarra, giustamente. No, ho visto che c'è un po' di R che girano, non ne ho trovato uno carino per te, perché è rassegna. Però mi chiamano il biondo, Erbiondo, va bene, Erbiondo ed Erchitarra. Allora, caro Erbiondo, innanzitutto, benissimo, ti ringrazio molto della cortesia, ti vorrei dire però, tieni da parte quello che c'è oggi con il Sole 24 Ore, 16 pagine per l'IMU e la TASI. Ottimo. Perché si ride e si scherza, ma qui si paga. Se vuoi dirla con un altro musicista, la stagione delle imposte viene e va, e il prelievo non diminuisce quasi mai, eccetera eccetera. Quindi IMU e TASI 16 dicembre ritornano, a volte ritornano, bisogna rifarsi i conti, e noi diamo oggi 16 pagine con il Sole 24 Ore per guidare alla cosa. Poi c'è il pasticcetto o pasticcione dei comuni ex montani. Tu ti senti ex montano? Perché, sì, abbastanza, ecco, anche sotto, a Milano in pianura, perché sei sotto, se sei sotto i 600 metri sei un ex montano, quindi caro mio il terreno paga IMU, e spiegano tutte le pagine di norme e tributi oggi, come spesso fanno le pagine di norme e tributi, e da par loro ti raccontano la vicenda. Ti vorrei dire, tu non sei donna, non sei prossimo all'età della pensione perché sei giovanissimo, dovrai lavorare fino a 85-86 anni, credo, per tenere in equilibrio i conti, però l'INPS ha detto che se ci sono ancora delle donne che vogliono esercitare la cosiddetta opzione donna per andare in pensione prima, presentino le domande anche nell'anno successivo. Ne terremo conto, non si potrebbe perché l'opzione si chiude, ma non si sa mai. È tutto spiegato, indovina un po' dove, oggi sul Sole 24 Ore, nelle pagine. Beh, certo. E poi naturalmente il Jobs Act. Adesso bisogna attuarlo, cioè va bene. I decreti attuativi. Adesso bisogna scriverli. Allora, ci sono anticipazioni interessanti per quanto riguarda i licenziamenti, specie licenziamenti disciplinari. Te lo raccontiamo nelle primissime pagine, così non ti facciamo fare fatica di andare fino in fondo. E poi, se tu i due urini una volta nella vita li volessi movimentare, caro Errassegna o Erbiondo, ecco, allora ci sono anche gli ETC. Hai visto che c'è un po' di movimento sul petrolio? Non so se hai colto in questi giorni. Ecco, abbastanza. Allora, insieme alle spiegazioni all'andamento dei mercati delle materie prime, ti diamo anche delle indicazioni bussola per appunto gli strumenti che sono specializzati proprio nell'investimento sul petrolio. A questo punto, ricordiamolo ancora: Erchitar stasera 21 all'auditorium del Sole 24 Ore qui in via Monterosa, a Milano. Venite, accorrete numerosi, c'è Erchitarra. Alessandro Milan, la rassegna stampa si rifà più in Vabbè, però dai, poi dopo passa. Io più che incazzare mi piacerebbe che vi rendesse un po' consapevoli, ecco, consapevoli. Poi vedete voi. Sono le 7:48 minuti, allora eccoci qua. Allora, ci sono ancora tanti articoli, come presumibile, come immaginate, finché il caso non verrà risolto sulla vicenda del piccolo Loris. Ora però bisogna sempre usare i condizionali, ma dagli articoli e dallo scenario che viene dalla lettura di giornale di oggi, la vicenda, dopo che il procuratore di Ragusa qui ieri a 24 mattino ha accusato il paese di omertà in qualche modo, cioè si è detto stupito del fatto che non siano arrivate segnalazioni. Comunque ciò che emerge dalla lettura dei giornali di oggi è uno scenario abbastanza inquietante. Le attenzioni ora dei procuratori sarebbero sulla famiglia di Loris. Guardate alcuni titoli, La Stampa: Loris, l'ultimo orrore, era abusato da tempo. Ieri è stata convocata in questura a Ragusa per accertamenti urgenti la madre. Intanto per questi slip che sono letteralmente comparsi dopo 4 giorni nei pressi della scuola. Erano di Loris, non erano di Loris. E poi racconta La Stampa con Francesco Grignetti, a un certo punto in paese si comincia a raccontare che non fosse poi questa mamma così attenta e protettiva come si è detto finora. Affidava forse il figlio a qualcuno? Un qualcuno che può avere tradito la sua fiducia, ma che se esiste è bene che venga fuori? cioè sta emergendo uno scenario sconvolgente. Chi indaga è ormai convinto non soltanto del movente sessuale dietro il sequestro e l'omicidio del bambino, ma che le molestie andassero avanti da tempo. E purtroppo è più di un sospetto atroce. Il pedofilo che ha avvicinato il piccolo e sabato mattina l'ha ucciso, da tempo lo aveva circuito. Ci sono indizi inequivocabili, indizi e non prove certe però. E però dai giornali, guardate anche il Corriere della Sera, per esempio, si chiede: ma perché, come tutti i giornali, non è mai stato ripreso? La macchina della mamma è stata ripresa varie volte, è vero, un bambino è piccolo in macchina, magari non si vede, magari le telecamere sfortunatamente inquadrano in maniera diversa la macchina, ma la mamma è stata ripresa in macchina varie volte durante il tragitto verso la scuola. E in queste immagini il bambino non si vede nella macchina. E ancora il Messaggero, quell'amicizia tra il cacciatore che ha trovato il bambino, e la famiglia. L'articolo è di Nino Cirillo, a pagina 19. Brutale la domanda, ma inevitabile. Il piccolo Loris conosceva il cacciatore che ha trovato il cadavere, Orazio Fidone? Sì, lo conosceva, perché si conoscono tutti in paese, ma anche perché, senza timore di forzare il quadro, il dipendente dell'Enel in pensione aveva buoni rapporti con tutta la sua famiglia. E tra l'altro si raccontano ovviamente scampoli di frasi raccolte qua là dagli inquirenti. Per esempio, Antonella, la zia di Loris, il giorno del ritrovamento del corpo, dice agli inquirenti: non crediate di trovarvi davanti alla famiglia del Mulino Bianco. Cruda e sincera, ma anche facile da accostare, perché al Mulino Nero hanno trovato il corpo di Loris, perché lì nascondevano nel Mulino Nero auto rubate, pezzi di Kalashnikov, perché sempre lì a un certo punto il comune decise di spegnere ogni telecamera qualche anno fa. Insomma, lo scenario che appare, ripeto, con il condizionale è discretamente inquietante. Una notizia che c'è sul Messaggero con grande enfasi: il Papa ha deciso di licenziare il capo delle guardie svizzere. Si tratta del comandante Daniel Rudolf Anrig, che terminerà il suo mandato il 31 gennaio 2015. Questa comunicazione, tre righe nell'Osservatore Romano, cioè il quotidiano del Vaticano, e ovviamente qualcuno parla della troppa rigidità del comandante. Tante volte il Papa si era battuto anche e chiedeva alle guardie svizzere: ma non siete stanchi? Una volta gli voleva portare un po' d'acqua a una di queste guardie svizzere, una volta ha rotto il protocollo stringendo la mano, una foto che ha fatto il giro del mondo, a una guardia svizzera che in teoria non dovrebbe avere alcun contatto fisico con il Papa. Insomma, è considerato un colonnello di ferro. Qualcuno parla anche di un appartamento troppo grande del comandante, non gradito al Papa. Sta di fatto che c'è un nuovo piccolo giallo in Vaticano. Mentre mi ha incuriosito molto questa notizia di cronaca, che sicuramente interesserà tutti coloro che amano gli animali, che hanno gli animali, ed è una decisione di un veterinario di Milano che ha affisso davanti all'ufficio sul vetro del suo ufficio questo cartello: attenzione, chiarisco il concetto, casomai fosse sfuggito. Il dottor Giordana, cioè lui stesso, direttore sanitario di questo ambulatorio, si è rotto i coglioni di richieste di soppressione di animali che dovrebbero essere i vostri compagni di vita e invece sono solo un fastidio, con buona pace dei vostri divani, caviglie, soprammobili, ferie, mariti allergici. Potremmo continuare a parlarne, ma poi non saprei dove occultare i vostri cadaveri. Non sopprimo animali sani. Il veterinario si ribella all'eutanasia degli animali, delle persone che si sono stancati di cani e gatti. Siete egoisti. Viene intervistato dal Quotidiano Nazionale e dice: sono esasperato dall'egoismo di chi mi chiede di uccidere il proprio gatto o il proprio cane perché deve andare in ferie, non sopporta più di vedere il divano graffiato o va a convivere con un compagno allergico. Motivi idioti e indegni. La crisi non c'entra, anzi meno ambienti sono quelli che hanno più cura dei propri animali e io li aiuto come posso. Bravo questo veterinario intervistato dal Quotidiano Nazionale. Ma siamo al momento conclusivo. La carta costa, l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali, a mio insindacabile giudizio. Ricordate, il Quotidiano Libero dedica mezza pagina all'inchiesta, inchiestona di chi? Con tanto di foto di Berlusconi che dopo l'effetto gelato Madia, per evitare questo, cambia il cono con una coppetta. Coppetta, mezza pagina su Libero! Ma chi se ne frega! 24 mattino. Allora, cari ascoltatori, sono le 8 e 20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Vi voglio fare questa domanda. Voi sapete che cos'è la legge Mosca? Legge Mosca. È una legge del 1974 che prende il nome da un deputato di allora, Giovanni Mosca. Era un sindacalista della CGIL e fu relatore di questa legge. Una legge che nacque magari anche con intenti e con buoni propositi, cioè sanare la situazione di un centinaio di persone, una serie di persone che dal dopoguerra, negli anni successivi, avevano prestato opera nei sindacati, avevano fatto il lavoro nei partiti, senza che fossero stati pagati i contributi all'INPS, e dunque bastava una semplice dichiarazione per ottenere il riconoscimento di quei contributi e andare poi in pensione. Ora però, come al solito, quando ci sono le buone intenzioni lastricano la via per l'inferno, qualcuno dice, e allora da quella che poteva essere una legge magari anche nata con un sano proposito è diventata un qualcosa di cui hanno beneficiato, leggo dal libro di Sergio Rizzo, Da qui all'eternità, di cui abbiamo parlato anche di recente, hanno beneficiato 37.119 persone per regalarsi di fatto una pensione da allora a oggi. Sergio Rizzo, buongiorno, eccoci buongiorno. Qui, Sergio Rizzo del Corriere della Sera, ne scrivi in questo libro, cioè è una cosa buona, nata bene e finita male, è una cosa nata male del tutto, come la definiamo questa legge Mosca? Ma secondo me è una cosa nata male del tutto, perché è stata, come dire, la legge che ha identificato di fatto i partiti e i sindacati con la cosa pubblica, nel senso che ha addossato allo Stato il costo di posizioni previdenziali che erano posizioni previdenziali non pubbliche, no? Non è che questi fossero dipendenti dello Stato o dipendenti di qualche ente, di qualche amministrazione pubblica, no? Però questo è, come dire, anche questo è il pezzo del frutto avvelenato del 68, no? Siamo sempre lì, cioè noi siamo riusciti a prendere le cose peggiori di quella stagione formidabile, che ricordiamo ci ha regalato delle grandi conquiste in tema di diritti civili, no? Noi non avremmo il divorzio oggi, per dirne una, se non ci fosse stato quel grande movimento, no, sociale. Sì. Però ci ha regalato anche alcune cose. Ci ha regalato alcune cose come questa, e non è un caso che tu hai citato la data, 74, non è un caso che proprio l'anno prima, 73, vennero fatti degli altri provvedimenti previdenziali scellerati, tipo le pensioni baby, oppure. Certo. Comunque questa è dedicata, la legge Mosca, dunque, a chi ha lavorato nei partiti e nei sindacati. Cos'è, in che cosa consiste il privilegio di questa legge? No, che il privilegio era molto semplice, cioè tu dichiaravi, si precostituivano delle dichiarazioni per cui dicevi, siccome non io ho lavorato da quando avevo l'età di 14 anni per un partito, quindi ho diritto a vedermi riconoscere i contributi figurativi a partire da quel momento. C'è da dire che questa legge doveva durare 2 anni e invece è stata prorogata ed è ancora viva e vegeta ai giorni nostri. Allora, Sergio, ti voglio presentare Walter Rizzetto, deputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, onorevole. Eccoci qua. Buongiorno. Lei ha fatto una proposta per abolire questa legge Mosca. Sì, mi sembra. Beh, innanzitutto io la ringrazio perché lei ne sta parlando, visto che è circa un anno e mezzo che io sto cercando di far parlare di questa cosa, ma evidentemente c'è un silenzio di tomba nei confronti di questa scellerata. Magari spiegheremo scellerata anche perché qualcuno che ne ha usufruito di abbastanza importante. Giustamente diceva che la legge Mosca, la 252 per l'esattezza del 74, nasce forse con degli intenti anche interessanti da questo deputato socialista Gaetano Mosca. Ma resta ulteriormente il fatto che ci sono quasi 40.000 persone in Italia che hanno beneficiato di questa legge senza aver mai, magari non tutti, attenzione, senza aver mai versato un contributo. E quindi grazie a questa legge decine di migliaia di funzionari, ex PC, portaborse della Democrazia Cristiana, socialisti e ovviamente, devo dire immancabilmente anche i sindacalisti di CGIL e CISL e UIL hanno beneficiato spesso, devo dire abusivamente, di pensioni agevolate. Ma fatemi capire. E riscattate ad un bassissimo costo. Soltanto una cosa, sì. La prego. Eclatante, perché la giurisprudenza si è occupata, i tribunali si sono occupati di queste, voglio dire, di questa stortura, nello specifico il tribunale della procura, il tribunale di Grosseto. Eclatante all'epoca fu il processo che fu istituito contro questi 111 lavoratori che erano del tutto fittizi, PC, Democrazia Cristiana, CISL, Lega Coop all'epoca, accusati di aver usufruito di questa pensione senza aver mai lavorato, anzi, addirittura qualcuno di quelli era detenuto negli anni di... detenuto addirittura, qualcuno ci scrive legge Mosca anche per gli operai, come provocazione, nel senso di dire datela anche agli operai. Però io chiedo, mi faccia capire una cosa Rizzetto, sì. Cioè magari nel 48 era difficile capire se uno lavorava effettivamente o no, ma in teoria adesso dovrebbe essere tutto chiaro se lavora davvero per il sindacato, per un partito oppure no? Cioè come continuano queste truffe? Ma oddio, non lo so se continuano, nel senso che alla legge Mosca sono stati fatti dal 1974 due richiami, per un totale, abbiamo detto prima, di quasi 40.000 pensionati, che costano all'erario 12 miliardi e mezzo, quasi 13 miliardi di euro, quindi una bella cifra. Quello che mi sconvolge è che è ancora vigente, nel senso che io ad esempio lo scorso anno in seno alla legge di stabilità ho proposto un emendamento semplice per l'abrogazione della legge Mosca. Io non dico di andare a togliere la pensione a chi magari anche giustamente in seno e grazie a questa legge ce l'ha. Però almeno eliminiamola da oggi al futuro. A fare una verifica puntuale su 40.000 pensionati per capire chi la percepisce giustamente e chi non la percepisce giustamente, quantomeno abrogare una schifezza che mi pare ancora, anzi che è vigente e che mi pare appunto una schifezza. Vediamo un attimo, Sergio Rizzo, ci sarà la possibilità di abrogarla? Forse dovremmo dire qualcuno dei nomi anche altisonanti che gode di questa. Ne dico io il primo, così vi tolgo d'impaccio. È vero che anche Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, ha beneficiato di questa legge, Sergio Rizzo? Io ho fatto un'interrogazione su Giorgio Napolitano, nel senso che c'è un'interrogazione mia a risposta scritta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dove chiedo, ed è un'interrogazione di aprile di quest'anno, già richiamata in aula, nel senso già ricordato che nessuno mi ha dato una risposta, già richiamata in aula, e voglio semplicemente capire se è vero, ma credo di sì, lo so, Sergio, è così. Sì, ma guarda, intanto voglio dire, io non posso che, come dire, che lodare l'iniziativa di Rizzetto, perché cioè io credo che sia il minimo sindacale questo oggi, abolire quella roba lì. Ma la cosa grave è anche il fatto che queste pensioni poi si vanno a sommare in moltissimi casi ad altri trattamenti previdenziali. Questo è il punto vero. No, per esempio, adesso facciamo nomi, uno dei personaggi più in vista che avrebbe beneficiato di questa legge Mosca, ma questo l'hanno detto i giornali, i libri, è Cossutta, no? È l'ex capo, appunto, di uno dei fondatori di Rifondazione del Partito Comunista, un grande esponente del Partito Comunista e poi uno dei fondatori di Rifondazione Comunista in seguito, no? Ebbene, Cossutta prende anche un vitalizio. Quindi, e ne prende due, cioè sia la legge Mosca che il vitalizio, la pensione, diciamo, per la legge Mosca. È un fatto che è abbastanza, come dire, singolare, perché tu sei stato parlamentare, prendi il vitalizio, congruo, per carità, perché non parliamo di pochi soldi. Da parlamentare in più hai anche la pensione per aver fatto la stessa attività. Pare anche dai nomi Ottaviano Del Turco, Sergio D'Antoni, poi, Franco Marini, anche lui. Questo. Ma sì, perché poi come funziona in Italia lo sappiamo, no? Si fa presto a trasformare delle cose che hanno magari anche un senso, no? In un privilegio, si fa prestissimo. Poi la politica e il sindacato lo sappiamo che era loro che facevano i provvedimenti, no? Che ispiravano le leggi, quindi di fatto qui c'è anche un conflitto di interessi ulteriore, no? Cioè gli stessi che ne hanno beneficiato poi sono quelli che hanno fatto la legge. Onorevole Rizzetto, cioè, che possibilità ha che venga abolita questa, abrogata questa legge? Diciamolo francamente, perché cosa dovrebbe succedere? Cioè, dovrebbe essere messa in discussione? Com'è l'iter? Sì, guardi, l'iter è questo, l'iter che adesso io voglio far passare a questa legge è quella sicuramente di calendarizzarla in commissione. Io sono vicepresidente della commissione lavoro qui alla Camera, e quindi giustamente chiederò al Presidente Damiano e all'Ufficio di Presidenza di poter calendarizzare questa legge e in commissione, per poi effettivamente votare quantomeno l'abrogazione. L'abrogazione per il futuro. Qualcuno è sobbalzato via SMS sui 12 miliardi e mezzo per le casse pubbliche. Siamo sicuri? Cioè, questa è la cifra, 12,5 miliardi di euro costa? Sì. Stimato. Allora, per dirla tecnicamente, è stimato che il costo di questi cosiddetti benefici previdenziali abbiano superato i 12 miliardi e mezzo di euro, e quindi andiamo a dirglielo per cortesia che c'è gente, andiamo a dirglielo ai cittadini che c'è gente, andiamo a dirglielo agli esodati, ai licenziati, agli esuberati, a coloro che prendono 496 euro di pensione minima al mese, pur avendo pagato egregiamente l'INPS per tutta la vita, andiamo a dire a queste persone che ci sono delle altre persone che grazie a questa legge, pur non avendo versato nessun contributo, ma sulla base sembra di una mera autocertificazione fatta dal partito, fatta dal sindacato. Sì, è chiaro, questo è lo scandalo, ci sono queste pensioni. Andiamo a dirlo a queste persone qui. Fatemi sentire Maurizio da Roma su questo tema. Maurizio, prima di andare in pubblicità e salutare. Buongiorno Milan. Dica. Volevo aggiungere che io sono un 56 anni, quindi ricordo benissimo quello che Indro Montanelli dalle pagine del giornale pubblicò 40 anni fa, perché mi segnò nome, cognome, indirizzo e telefono di ciascuno dei beneficati. Addirittura al telefono? Addirittura al telefono. Una cosa folle. Io non sono un politico, ma ricordo perfettamente tutto questo, e ricordo perfettamente che ci furono dei commenti per cui c'erano delle persone che avrebbero lavorato per il sindacato ancora prima di venire al mondo. Quindi lo scandalo c'è. E 40 anni dopo siamo qui, caro Sergio Rizzo. 40, tu te la ricordi questa cosa di Montanelli? Come no, me la ricordo, sì. Me la ricordo, qui ancora, dopo 40 anni, capito, che questo è il nostro bene amato paese. Comunque, in bocca al lupo all'onorevole Walter Rizzetto per questa iniziativa. Ci tenga informati ovviamente del Movimento 5 Stelle. Grazie. Ringrazio Sergio Rizzo, ricordo ancora il suo libro, è Da qui all'eternità, di Feltrinelli, lo trovate in libreria, è già in classifica. E parla anche di questa cosa, di questi privilegi, parla dei privilegi italiani, di politici, sindacalisti, l'esercito, insomma, da qui all'eternità, l'Italia dei privilegi a vita. Grazie, la pubblicità e poi rientriamo. 24 mattino. Siamo qui alle 8:38 minuti, allora vorrei sentire anche Ciro da Taranto che sul tema della legge Mosca ci ha chiamato. Ciro, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo solamente dare un'altra chicca di questa storia qui delle pensioni riguardo a chi fa sindacato o cose del genere. Ed è riferita ai benefici previdenziali amianto. Voi sapete che cos'è? Cioè, praticamente lo Stato garantisce ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto un beneficio previdenziale che la metà su 10 anni vi condona, cioè vi regala 5 anni di contribuzione, per cui io vado 5 anni prima in pensione, ok? Allora, i sindacalisti che chiaramente erano ex operai o gente che stava in una cocheria o in una acciaieria, cose del genere, quindi chiaramente come lavoratore sicuramente esposto a determinati rischi, invece questi lavoratori che poi sono diventati sindacalisti, oltre a usufruire della legge, adesso non so di preciso se è la legge Mosca, perché ne esiste anche un'altra per quanto riguarda il sindacato. Quindi cosa vuole dire? Voglio dire che loro usufruiscono due volte, cioè usufruiscono perché comunque sono sindacalisti della e in loro... più sulla... per il fatto che lavorino a contatto con l'amianto mi sembra anche una cosa giusta, sì, ma loro non lavorano, attenzione, loro non lavorano, ah, lei dice perché sono sindacalisti, sono distaccati, sono fuori, sono distaccati. Va bene Ciro, effettivamente insomma su questo tema magari torneremo, perché comunque c'è una proposta oggi per abrogare questa legge, staremo a vedere. Certo, fa specie, come ci ha detto l'ascoltatore che già 40 anni fa Indro Montanelli denunciava questo. Per concludere questo argomento, ma poi se volete telefonarci ancora ci darà spazio, ascoltatori, c'è chi chiede, ma 12 miliardi per le casse pubbliche, siete sicuri? Sono 300.000 euro a testa. Ma sì, ma voglio dire, è normale 300.000 euro a testa, nel senso, uno magari prende la pensione da 20 anni fa e la prenderà per i prossimi 25 anni e i calcoli sono quelli, non è che sono calcoli inventati. 12 miliardi e mezzo di costi dell'INPS per tutte questa legge Mosca è quello che è la valutazione di quanto costano. Ovviamente queste pensioni non è che sono tutte da cancellare, non sono tutte da cancellare, molte saranno assolutamente lecite, ma questo è il costo per le casse dello Stato. Ma vogliamo salutare un ospite, perché ieri io mi sono molto arrabbiato in rassegna stampa nel raccontare la vicenda di questo autotrasportatore bulgaro, e molti si sono arrabbiati con me e ci hanno scritto: autotrasportatore bulgaro che qualche anno fa travolse, uccise completamente ubriaco un bambino di 3 anni per scappare, andare a prostitute, ed è stato condannato a 2 anni e 9 mesi, non farà un solo giorno di carcere. Allora io voglio salutare il vice ministro delle infrastrutture e trasporti Riccardo Nencini. Buongiorno. Torna con noi, era stato con noi a luglio quando ci aveva raccontato del disegno per modificare il codice della strada, approvare l'ergastolo della patente e poi insomma anche l'omicidio stradale. Allora, a che punto è questo disegno delega, vice ministro? La Camera lo ha già approvato, fra l'altro con una maggioranza larghissima, quindi per la prima volta, al di là delle proposte generiche, abbiamo scritto concretamente ergastolo della patente, omicidio stradale all'interno di una norma dello Stato. La legge delega ora è in commissione al Senato, la commissione ha preso impegno di vararla entro la fine dell'anno, inizio del gennaio del prossimo anno, dopodiché, se non subirà modifiche, andrà in aula al Senato, una volta approvata dal Senato, avrà la possibilità di scrivere la norma in maniera assolutamente articolata e dettagliata. Cioè, per carità, l'iter parlamentare ci vuole, perché nessuno vuole dire, cioè, cos'è, qualche mese, metà dell'anno prossimo possiamo prevedere, perché molta gente ha iniziato a scrivermi: basta, fate questa campagna per l'omicidio stradale dopo questa ennesima vicenda scandalosa. Guardi, ci sono due strade. Se utilizziamo la strada del codice della strada, per l'appunto, l'impegno preso dalle Camere è di varare il codice entro la fine del prossimo anno e quindi entro la fine del 2015. Sì. Stiamo valutando però una strada alternativa. Stiamo valutando il sostegno dal punto di vista giuridico legata esclusivamente all'omicidio stradale. Cioè, che strada alternativa state ipotizzando? Non stiamo escludendo l'ipotesi di un decreto, però bisogna capire se dal punto di vista giuridico la cosa tiene. Certo, un decreto sarebbe un decreto del governo, un consiglio dei ministri, certo, che poi va convertito entro 60 giorni, però esatto. Subito produce gli effetti. Lei che, cioè, perché vede, lo sdegno di molti ascoltatori quando ho letto questa vicenda, noi non conosciamo le carte processuali, ma quando uno legge di un autotrasportatore ubriaco che uccide un bambino, se scappa, va a prostitute e non farà un giorno di carcere, ma che dobbiamo pensare noi cittadini, anche lei? Penso io come cittadini arrabbiati. Tenga conto che il numero degli incidenti stradali mortali in Italia si è dimezzato e ha funzionato soprattutto la patente a punti. Oggi siamo dal circa 8.000 a 3.800, sono tanti ma sono la metà rispetto ad alcuni anni fa. Ma lì dentro, il numero, dentro a questi quasi 4.000 morti sulle strade, il numero degli uccisi perché l'automobilista era ubriaco o aveva fatto uso di stupefacenti è attorno al 30% e sta salendo. E con la tecnica dei patteggiamenti, nessuno di quel 30% conosce le patrie galere. Esatto. Questo è il problema, cioè, forse il problema è che bisogna avere coscienza che c'è una sanzione più grave nel momento in cui uno si mette alla guida ubriaco, se no uno, non dico che lo faccia di proposito, però dice vabbè, ma cosa vuoi che succeda, massimo mi beccano, tanto non succede niente, non vado in galera mai. Inasprire le pene è una buona soluzione? Inasprire le pene è una buona soluzione accanto all'educazione stradale, è il programma che inizia proprio in questi giorni, l'abbiamo presentato ieri, io domani sarò a Scampia, perché Scampia è il cuore di un'area tra la provincia di Caserta e la provincia di Napoli dove gli incidenti sono altissimi e dove l'uso della legge, diciamo, che è molto più parziale e marginale di quanto non avvenga in altri pezzi d'Italia. Quindi intanto l'educazione, oggi non è ganzo chi viene meno alle regole e non si mette il casco, ma è ganzo ed è eretico chi rispetta le regole, perché salva la vita sua e di quelli che sono accanto a lui. Però siccome io so che il presidente Renzi ha preso anche un impegno, credo anche con alcuni genitori che purtroppo hanno perso il figlio su questo tema, lei vice ministro, perché non fa una campagna, vada a Renzi a dire oh, dobbiamo farla subito questa cosa, ma subito? Guardi, perché non ce n'è bisogno, perché è Renzi che ogni tanto rompe le tasche a chi le parla e ci rompiamo le tasche a vicenda anche sulla velocità, è la ragione per la quale nel codice della strada, nella legge delega, abbiamo messo e stiamo valutando anche ipotesi che siano ipotesi più rapide. Però la legge va rispettata anche da parte nostra e quindi bisogna capire se una strada la più rapida possibile non sia divergente rispetto a quello che il diritto ci consente. Quella del decreto, ma perché? Che cosa potrebbe ostare di fronte a un decreto legge? Cosa dal punto di vista normativo? Come lei sa, i decreti legge si fanno per ragioni di urgenza e quindi la valutazione è sull'urgenza. È solo sull'urgenza, cioè è solo questo, verificare, beh, insomma, già solo il fatto che ci ha detto che sono incrementati il 30%, se non sbaglio. La mia opinione è che ha una ragione. Potrebbe essere una ragione questo. Sì. Lei ha un'idea di quando proporrà Renzi questa via alternativa? Cioè è una cosa che potremmo scoprire a giorni, addirittura entro la fine dell'anno? Guardi, io ho la certezza che gli uffici ci stanno già lavorando da qualche giorno. Noi insisteremo su questa cosa, Vice Ministro. Mi date una mano e quindi come no? Tiro nella vostra porta, non nella porta opposta. Come no? Noi raccogliamo l'invito di tutti gli ascoltatori che ci hanno detto continuate a insistere su questo tema, perché è un tema molto sentito. Poi si sa queste cose, uno lo sente soprattutto finché nel momento in cui viene toccato magari per un'esperienza negativa, ma in realtà è una cosa che deve interessare tutti. La ringrazio, Vice Ministro, per essere stato con noi. Buona giornata. 24 mattino. E allora, le 8:48 minuti, ci ha chiamato Lorella da Arezzo. Buongiorno Lorella. Buongiorno signor Milan, dottor Milan, anzi mi scusi. Sì, ma mi chiami Alessandro, ma che problema c'è? Siamo legati ancora a queste cose. Sei il mio compagno di tutte le mattine, che mentre bello. Sto andando in ufficio, quindi mi fa piacere. Allora, a parte i complimenti che sono scontati e d'obbligo, volevo solo portare brevissimamente, perché so che hai sempre pochissimo tempo, la mia esperienza. Mi riallacciavo al discorso del sottosegretario Nencini, sì, per quanto riguarda la legge sull'omicidio stradale e sul fatto del bulgaro che hai detto. Allora, 2 anni e mezzo fa mio figlio alle 2 di notte ha preso un drink tra l'altro a 500 metri da casa, stava tornando, è stato fermato, tasso alcolemico 0,50, però neopatentato e quindi tolleranza zero. Mm-hmm. E tutto giusto, guarda, io approvo tutto, però voglio dire, sono passati 2 anni, tra l'altro in macchina era con la ragazza, quindi c'aveva chi poteva guidare fortunatamente, se no sequestro del mezzo, tutto. Sì. Sono passati 2 anni e mezzo, ha fatto 180 ore di servizio pubblico per recuperare. Poi abbiamo speso di avvocato non ti dico quanto, sospensione della patente per 8 mesi, insomma a distanza, cioè, dice una durezza incredibile. Allora, e ancora poi non ne siamo usciti, con un ragazzo di 20 anni che per questa cosa aveva già la fedina penale segnata, non ne siamo ancora usciti, costi per le famiglie allucinanti, vorrei anche aggiungere, perché questi sono tutti ragazzi giovani, tolleranza zero per i neopatentati, il costo grava tutto sulle famiglie, quindi tutto quanto. Io dico tutto giusto, per carità, mi sta bene, e sono a favore dell'omicidio stradale e sono a favore che chi si mette alla guida che ha bevuto è un potenziale omicida, questo è scontato. Sì. Però insomma, 2 pesi 2 misure e di lei questa li nota. Distanza li nota. Mi sembra veramente eccessivo. Va bene, grazie Lorella per questa testimonianza su questo tema, su cui torneremo certamente. Come sapete però, noi oggi vogliamo ogni giorno scoprire un ascoltatore che ci ascolta dall'estero, e siete davvero una mare Marea, continuate a scriverci a 24 mattino e radio24.it, ci scrivono da tutto il mondo, con un po' di tempo vi mettiamo in fila uno al giorno, verremo anche da voi in questa iniziativa che abbiamo chiamato Ciao Italia. Ciao Italia. Allora, oggi voglio salutare un mio omonimo, Alessandro. Buongiorno, buonanotte, buonasera, cos'è? Buongiorno Alessandro. No, buonanotte. Buonanotte. Le due di notte. Ciao, come le due di notte? Da dove ci ascolti? Da Springfield in Missouri. Da Springfield in Missouri con Homer Simpson, no? Sì. Alessandro, che ci fai a Springfield negli Stati Uniti? Io lavoro per una ditta di qua e sono a capo dall'anno scorso di una divisione che importa dall'Italia un prodotto chiamato Multi One, che è un specie di un trattorino che può avere fino a 180 accessori davanti. Per un cui trattorino, fantastico. Ah, guarda, l'Italia ha un sacco di piccole e medie aziende che fanno dei prodotti eccezionali. Come sei finito lì da quelle parti? Oh, è una storia lunga. Sono finito prima in Florida, poi mi sono spostato in Missouri, poi ho incontrato quella che è diventata poi mia moglie e sono rimasto fermo. Ah, per amore, ho capito, per amore sei finito a Springfield. Vabbè, ma insomma, che clima c'è lì a Springfield? Cosa si racconta? Dov'è il Missouri? Allora, il Missouri è nel Midwest, per cui è praticamente siamo a 7 ore in linea d'aria da Chicago venendo verso sud e praticamente non si dice praticamente nulla, nel senso siamo in quella che chiamano la Bible Belt, per cui un posto dove sono tutti molto cristiani, molto carini, molto cordiali, molto educati, è un posto carino per vivere, nel senso che lascia ancora la macchina accesa, aperta davanti a casa. Per andare a E nessuno dice niente. Però quando ti abbiamo sentito, Alessandro, questa cosa la possiamo dire, sappiamo e abbiamo scoperto con chi sei sposato tu, con tua moglie, cosa fa? Un pastore metodista. Beh, ma fantastico, un sacerdote, una sacerdotessa della chiesa metodista, insomma. Sì, per cui io passo il mio tempo libero lo passo seguendo lei nelle varie attività. Tra l'altro, vabbè, la sua chiesa sono poi 300 anime, per cui sono tutti molto, molto gentili, nel senso è un ambiente completamente diverso dalle nostre chiese, è una situazione completamente diversa, ti accolgono come se fossi di famiglia anche se non ti hanno mai visto. Beh, insomma, è bellissima questa cosa, quindi una sacerdotessa, ma fa questo proprio, cioè il suo lavoro è questo? Tutto il giorno? Sì, la chiesa le dà uno stipendio, per cui è la chiesa che sono i membri che si tassano e le pagano lo stipendio e lei praticamente la giornata la passa fondamentalmente al telefono, per cui siamo arrivati al punto in cui la gente quando succede qualcosa chiama prima lei e poi la polizia. Beh, e incredibile. Quando succede qualcosa di grave. E come ci ascolti da Springfield tu? Come ci ascolti? Via podcast, il podcast. Per cui ti ascolto sempre il mattino dopo. Certo, di notte dormi, tranne oggi. Sì, la mia mattina io ti ascolto quando tu hai finito, per cui quando dai dei debosciati, io in teoria sono uno di quelli perché mi sono svegliato quando ormai tu hai finito la tua vita. Ma non oggi che alle 2, ricordiamo solo le 2 di notte lì adesso? Le 2 di notte. Quasi le 2, sì, no, sono le 2. Vabbè, Alessandro. Sono 55. Ti lasciamo andare a dormire. Che cosa vuoi dire da lì all'Italia? Scusa? Cosa vuoi dire da lì, da Springfield in Missouri, a noi italiani? Che sono 83 settimane che qualcuno deve mettere la testa a posto e reagire in qualche modo. E basta così, le 83 settimane decisive per la riforma elettorale, di cui si parla moltissimo, immagino, nella chiesa metodista di tua moglie. Assolutamente, è il primo motivo di preghiera. È il primo motivo di preghiera. Una preghiera da Springfield, Missouri, dal nostro amico Alessandro, che abbracciamo perché venga fatta la legge elettorale in Italia. Grazie Alessandro, ovviamente un abbraccio e buonanotte. Mi fermo qui con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Scriveteci se ci ascoltate dall'estero. 24 mattino e radio24.it. A domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.